This is not an exit. Digressioni musicali dalla fine del secolo breve. Fuck you, I won't do what you tell me. Beh, cominciò più o meno tutto così, era il 1992 e questi erano i Rage Against the Machine e sembravano venire da un altro pianeta, ma qua siete sempre nel solito pianeta Terra, trasmettiamo da qua, da Bologna, questa è Radio Città del Capo e questa è This Is Not An Exit. Buongiorno dottor Scarpa e buongiorno dottor Corrias. Oh, buongiorno a te, a voi e chi più chi ne ha più ne metta, insomma. Mette cosa? Non lo so, in generale. Perché questo pezzo qui di Rage Against the Machine, partiamo subito a manetta. La parte finale, con un ritornello che è incredibile, negli Stati Uniti è stato praticamente censurato, tant'è che la versione statunitense del loro primo disco ha un minuto in meno, che sarebbe il minuto dell'ultima strofa di Killing in the Name. Sì, ma come? No, proprio di questo pezzo qua. È il brano con cui sono esplosi, tutti riconoscevano. Tutti... E infatti c'è un ritornello che mandava a quel paese chiunque volesse dare ordini, insomma, a Zach La Roche e tutti i Rage Against the Machine, insomma, non era ben visto. Ma infatti la BBC lo mandò anche l'ultimo minuto e in Inghilterra vendettero un sacco di dischi Rage Against the Machine, anche grazie a questa frase che in America invece era stata censurata. E proprio di censura si parlavano molto di censura, no? Se ricordiamo nel 93 a Lollapalooza si presentarono nudi con praticamente un altro adesivo sulle pudenda che diceva appunto PMRC, che sarebbe la Parents Music Resource Center, che era un'associazione praticamente di genitori che impedivano ai figli cioè alle case discografiche di lanciare attraverso la musica messaggi che per loro erano negativi. Una meravigliosa associazione presieduta da Tipper Gore, la moglie del futuro vicepresidente degli Stati Uniti. Se il buongiorno si vedeva dal mattino insomma si capisce tanto. Non era un buongiorno. Non era un buongiorno. Burn, burn, yes, you're gonna burn. Burn, burn, yes, Beh, dicevamo bomba, sì, questo qui si chiamava tra l'altro Time Bomb, ma la vera bomba fu Killing in the Name, il brano precedente, che fu un fulmine a ciel sereno, un po' come Smells Like Teen Spirit dei Nirvana nel 91. Stesso impatto, ma mentre i Nirvana erano qualcosa che implodeva, i Rage Against the Machine invece esplodevano e, come dicevamo qua tra di noi, i microfoni spenti, erano anni, anni, anni, tipo dai tempi dei Clash, sono tanto per stare su gruppi molto conosciuti, che non si aveva un gruppo estremamente politicizzato con una risonanza del genere, quindi una bomba veramente ad altissimo potenziale che risuonò praticamente in tutto il mondo occidentale e non solo. Beh, sicuramente sì, dai tempi dei Clash che fanno un disco, un triplo, addirittura a chiamarlo sandinista, è tutto dire, insomma, è il successo commerciale che ha avuto poi quel disco. Invece loro andavano andavano un po' più a nord, andavano verso il Messico e parlavano dell'esercito zapatista di liberazione nazionale, andando in giro, insomma, con le magliette, quindi si passava dal Nicaragua al Messico, comunque sempre tematiche sudamericane di e oppressione da parte degli Stati Uniti, no? Perché sappiamo che per gli Stati Uniti il Sud America è sempre stato il giardino di casa da sfruttare, quindi i Clash con i sandinisti e le Rage Against the Machine con i zapatisti. Comunque sempre di lotte comuniste si tratta, non hanno mai rinnegato il fatto di essere abbastanza, anzi molto di sinistra e molto vicino a totalmente, totalmente come per dire. E quindi le tematiche erano quelle. Poi si parlava anche di diritti dei nativi d'America. Poi ne parliamo un attimo più avanti, ascoltando magari il pezzo che parla di quello. We'll be right back. stands in front of the class, but the lesson plan he can't recall. The student's eyes don't perceive the lies bouncing off every fucking wall. Closure was well kept, I guess he fears playing the fool. The place that students sit and listen to that bullshit that he'd learned in school. Europe ain't my rope to swing on. Can't learn a thing from it, yeah, we hang from it. Close the doors on those who try to strangle and mangle the truth. Cause the circle of hatred continues unless we react. We gotta take the power back. Yeah, we gotta take the power back. Come on, come on. Yeah, we gotta take the power back. Dicevamo, erano anni e anni che non c'era un act di questo genere in giro. In giro intendo, siamo nel 92, lo ricordo, quindi MTV la faceva da padrone in Italia, Video Music ora non c'è più. E Killing in the Name era visibilissimo e continuamente messo in EV rotation su MTV, su Video Music, sulle principali radio, perché dietro avevano la Sony, la Epic, che era una subsidiaria della Columbia, quindi della Sony, una mega corporation, non riesco a immaginarmene di molto più grandi. Ed era questa la grossa differenza, perché sì, come abbiamo detto prima, c'erano stati i Clash, ma tra i Clash, che si parla della fine degli anni 70, inizio 80, quindi tra Sandinista e Rage Against the Machine sono passati qualcosa come 13 anni. Beh, in questi 13 anni col punk tantissime, numerosissime formazioni furono politicizzate, erano politicizzate, i più famosi magari erano i Dead Kennedys, poi i Fugazi, però avevano una cosa che li contraddistingueva da tutto il resto, erano autoprodotte, rimanevano in circuiti abbastanza sì, chiusi, mentre i Rage Against the Machine arrivarono nel circuito grosso. Era do it yourself, insomma, avevano infatti i Rage Against the Machine hanno avuto dei problemi poi con certi puristi che affermavano appunto è facile fare un certo discorso comunista quando poi si firma per una grossa etichetta, e loro dicevano vabbè, a noi ci interessa che il nostro messaggio arrivi a più gente possibile e lo possiamo fare solo attraverso le grandi corporation. Che invece diversi ragionamento è corretto, però ovviamente è sicuramente incoerente, su questo non penso che ci sia tanto da dire, insomma. Beh, sicuramente penso che i Fugazi e Dead Kennedys appunto avrebbero avuto più possibilità firmando per una grossa etichetta. Loro hanno fatto una scelta diversa facendosi l'etichetta come i Dead Kennedys con l'Altered Tentacles e i Fugazi con la Disordered Records. È un altro discorso, un altro modo magari di intendere la musica e la cultura, però ognuno poi ha la sua idea, ovviamente. Ecco. Father's eyes. Yes, I dwell in hell, but it's a hell that I can grip. I tried to grip my family, but I slipped to escape from the pain. existence mundane. I got a nine, a sign, a set, and now I got a name. Read my writing on the wall. No one's here to catch me when I fall. Death is on my side. Suicide. Jail cell is freedom from the pain in my home. Passed on, passed on, passed on. A world of violent rage, but it's one that I can recognize, having never seen the color of my father's eyes. Yes, I dwell in hell, but it's a hell that I can grip. I tried to grip my family, but I slipped. To escape from the pain in an existence mundane, got a nine, a sign, a set, and now I got a name. Read my writing on the wall. No one's here to catch me when I fall. Cut between my culture and the system. Siamo sempre sui 94.7 di, e 96.50 di Radio Città del Capo. Questa è This Is Not an Exit. E oggi parliamo di Rage Against the Machine, paladini di un certo crossover californiano. Sicuramente quello che ha venduto di più, o comunque è stato più conosciuto, anche grazie alle tematiche. Parlavamo prima della, sì, delle tematiche a parte il Sud America, però c'era anche da affrontare le tematiche dei nativi americani. E un pezzo, l'ultimo dell'album, Freedom, appunto, è dedicato a Leonard Peltier. Chi è costui? È un attivista per i diritti dei nativi americani, arrestato nel 77 e ha addirittura due condanne all'ergastolo. Questo soltanto perché era nelle vicinanze di un conflitto a fuoco fra membri dell'FBI e attivisti, appunto, e si dice, insomma, che è stato lui l'artefice della morte di due agenti dell'FBI. Però il processo ha molti punti oscuri e i Rage Machine sono preoccupati di questo caso e hanno dedicato appunto il pezzo a questo attivista che è ancora in galera, ricordiamo. E poi anche Mumia Abu Jamal, un altro sempre vittima della giustizia fra virgolette americana, anche questo tassista newyorkese se non sbaglio, che fu accusato appunto di aver ucciso un poliziotto. Insomma, tematiche che davvero non si sentivano più magari a certi livelli, perché di Kennedy sì, hanno occupato pagine e pagine dell'underground statunitense parlando di vittime, di ingiustizie, no? Ricordiamo anche insomma in modo sarcastico, invece i Rage Against the Machine prendevano di petto le situazioni molto più, no? Molto più critici e insomma, schierati. Infatti questa era in buona parte la differenziazione, o se vogliamo insomma è sempre stata la loro forza, il fatto che comunque prendere a piene mani poi alla fine dal messaggio, dal modo di insomma lanciare il messaggio, tipicamente penso un po' rap, un po' anche punk, insomma andare diretti al nocciolo della questione, dicendo chiaramente la loro idea a proposito di varie tematiche che molto spesso erano considerate quasi dei tabù al tempo, quindi comunque era già difficile imporre le proprie idee, che in buona parte gli hanno dato dei problemi, in buona parte no, nel senso comunque è strano a oggi insomma sentire delle dichiarazioni dove sia il cantante che anche Tom Morello insomma dicevano che la loro major insomma non gli ha mai creato problemi nella stesura dei testi eccetera, gli ha sempre lasciati in totale libertà in tutto. Questo fa molto strano, insomma è un contraddittorio dentro il contraddittorio, se vogliamo, cioè si parla di anticapitalismo dentro, diciamo così, la patria del capitalismo, ma lanciando dei messaggi che vanno contro quello poi già dove stare. Un po' incoerente a dire il vero, però insomma questo era. environment exceeding on the level of our unconsciousness. For example, what does the billboard say? Come and play, come and play. Forget about the movement. Morello era un grande, ragazzi, cioè non c'è storia. Beh, si era praticamente inventato, aveva mutuato il modo di suonare dallo scratch dell'hip hop. Ed è la cosa bella è che i Rage Against the Machine suonavano crossover, ma incarnavano crossover, perché loro stessi erano un crossover, quantomeno razziale. Zack de la Rocha era di origini messicane, suo nonno aveva addirittura partecipato a una delle rivoluzioni di inizio secolo in Messico. E Tom Morello, come dice il cognome, è di origini in parte siciliane da parte di padre, ma anche in parte keniote. Sì, con parenti nella politica keniota e anche statunitense, se non sbaglio. C'è, cioè, un suo zio era stato eletto, non mi ricordo cosa, cioè comunque faceva parte del direttivo politico, insomma, americano, e anche il padre. Nonché anche la madre, se non ricordo male, faceva parte. Erano bene o male tutti attivisti, i genitori, entrambi attivisti, i genitori di Tom Morello. Comunque, sia Zack de la Rocha che Tom Morello avevano un background, diciamo, da militanti. Poi io, come dire, da ragazzino, la maggior parte di noi ragazzetti, quando uscì questo disco, non ne sapeva praticamente nulla. Ma, polemiche a parte, questo gruppo e questo disco e questa canzone in particolare, Freedom, per esempio, cominciarono a veicolare contenuti che per noi erano assolutamente sconosciuti, anzi erano fantascienza. Si sapeva dell'America quello che, sugli indiani, quello che i film di John Ford, quindi gli indiani erano i cattivi e i bianchi i cowboy erano i buoni, avevano veicolato, perlomeno nella nostra rozza miglia. Invece non era esattamente così. ma anche più a sud, Bab, non era soltanto la Rozza Emilia, insomma era tutta l'Italia che ancora vedeva i film di John Ford. Comunque sì, perché comunque personaggi davvero tipo Leonard Peltier o Abu Jamal, nessuno sapeva le vicissitudini di questi personaggi, questi reietti della vittima della giustizia statunitense, e loro hanno avuto il merito di tirar fuori nomi e cognomi, insomma, di personaggi così, più anche più dei Clash, che parlavano genericamente di movimenti ma non di persone fisiche, no? Quindi era anche un po' più sul personale, insomma, era più insomma individuato il soggetto vittima della giustizia. Just victims of the in-house drive-by. puntata. Beh, mica male. Un bel crossover di punk e hip hop, punk hardcore ovviamente, ma siamo in California, lo ricordiamo, siamo a Los Angeles. E se già dalla copertina ricordo un meraviglioso monaco buddista che si dà fuoco cospargendosi di benzina in Vietnam nel 63, la copertina è un discreto pugno in un occhio ed era raro non accorgersi in un negozio di dischi. Beh, insomma, già il buongiorno non era insomma tranquillizzante, ma crescendo a Los Angeles, essendo figli di, diciamo, di immigrati, se non di prima, di seconda generazione, e comunque Los Angeles, dai disordini di Watts, quindi dal 65 a quelli di South Central dell'inizio degli anni 90, aveva visto tantissima oppressione nei quartieri più poveri, e dubito che ormai i nostri Rage Against the Machine fossero ignari, anzi, vivendo ormai Los Angeles, anche se non erano nati proprio lì, ne erano ben consapevoli. Comunque possiamo fare una puntata sulle copertine più impressionabili, visto che l'altra volta abbiamo parlato del gruppo newyorkese che ci aveva, insomma, gli insane, incidente stradale e con relativo sangue. Qua abbiamo il monaco che si dà fuoco, davvero impressionabili, insomma, quando ci vanno pesanti questi americani con le copertine, non c'è e loro sono fatti così, che ti devo dire, Rosa? Insomma, no, vabbè, a parte gli scherzi, però copertine che davvero danno un senso anche al disco. È vero, ma soprattutto a me piaceva un sacco anche la loro scelta, interessantissima, anche dei caratteri del logo, cioè un logo non logo, era una scritta quasi, sembrava fatta con la macchina da scrivere il loro logo, se non sbaglio, no? E poi l'accostamento verde, nero, bianco, insomma, della copertina di cui stiamo parlando. Beh, quello viene molto dall'estetica do it yourself dell'hardcore anni 80, semplice, direi. Minimale, è che comunque ha diretto, avuto, sì poi alla fine quello, cioè... o i volantini delle Brigate Rosse in Italia, una scritta così sembra comunque molto. No patience. American dreams, all of which are American dreams, all of which are American dreams. Avete capito cosa diceva? Sembrava abbastanza chiaro, no? Beh, insomma, dire conosci il tuo nemico per dei ragazzini è molto importante, un messaggio molto importante, perché davvero magari ha fatto aprire gli occhi a parecchia gente. Io mi ricordo che da lì in poi parecchi ragazzi li vedevi con la maglietta EZLN, insomma, c'era un movimento che si spingeva anche grazie ai Rage Against the Machine. Direi messaggio ricevuto in questo caso. Comunque il messaggio è veramente arrivato dove doveva, quindi diciamo che hanno fatto, sono adesso in fondo e ha raggiunto il loro obiettivo, se vogliamo. Sì, sicuramente. Sfruttando i canali della Sony, la Sony era contenta che ha venduto 7 milioni di dischi, si è fatta le sue royalties, è buona lì. Sì, infatti è curiosa sta cosa, cioè nel senso è arrivata ad accettare sto messaggio che poi alla fine implicitamente era anche contro di lei, pur di incassare, perché comunque alla fine erano redditizi, cioè c'è poco da fare, capitalismo puro. Business Uber Alles. A parte queste bazzanate, stiamo per introdurre anche un avvenimento odierno che si tiene direi in tutto il mondo. Si chiama Music Store Day. Dopo This Is Not an Exit, che va a concludersi in questi minuti, ci collegheremo da Via Oberdan, sempre con la regista del capo Morra, che condurrà, se non vado errato, da Sam, dal negozio di dischi Sam. Beh, comunque noi ci proveremo dopo il giornale radio. Intanto saluti a tutti. È il meteo dopo, che scusate, dopo il meteo. È il meteo e noi ci sentiamo sabato prossimo, festa della liberazione, vediamo dopo, un attimo. Dopo il giornale radio, a quel punto. Dopo il telegiornale radio. Va bene, ci sentiamo. Ricevuto.